Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, arriviamo a mettere il cappello su una settimana di lusso per il nostro basket in Europa, in Eurolega. Oggi qui con me un allenatore che ha fatto una grandissima stagione l'anno scorso a Montegranaro, ora a guardare non so per quanto, intanto me lo tengo stretto Fabrizio Frates. Ciao Fabrizio, grazie. Ciao e buongiorno. Costan Peterson, buongiorno. Ciao ragazzi, ciao Carlo, abbraccio Fabrizio. Ciao coach. Senti, manco fosse la settimana della moda a Milano, tre super top model che sono arrivate sulle passerelle dei nostri campi, il Barcellona Campeon che si è concesso a Siena, mentre da Olympiacos e Panathinaikos, dalle due greche, abbiamo preso un paio di due di picche, Roma e Milano. Chiedi a me, Carlo? Sì, a te, coach. Well, ovviamente noi siamo stati a Siena per la partita e devo dire questo, io come allenatore sarei stato orgogliosissimo a vedere una mia squadra giocare come ha giocato Siena contro Barcellona. Lì è il capolavoro della squadra, dei Pianigiani e del suo staff. Veramente hanno giocato una partita di un'intensità per 40 minuti, cioè palpabile. Eravamo lì sul campo, come sa Frates benissimo, che è un grande preparatore difensivo. È una cosa fare un aiuto, è un'altra cosa fare un aiuto e anche un recupero, che ci sia anche spesso la rotazione. Hanno fatto loro aiuti, recuperi, rotazione, accorgimenti, cambi, raddoppi per 40 minuti, cioè è impossibile far meglio. Hanno fatto la partita in difesa perfetta contro la super squadra, hanno letteralmente annullato Ricky Rubio. Ovviamente Barcellona non aveva Navarro, che è peccato per loro, però avevano vinto l'anno scorso lì a Siena di 19 punti, e per di più Siena ha sbloccato Rakovic, che ha giocato una partita davvero strepitosa, e ha soprattutto l'ha sbloccato McCaleb, che ha partito 7 su 7, li ha letteralmente schiantato. Lui, non avevano una risposta per lui, la miglior partita possibile, cioè quest'anno la più bella partita per uno spettatore, per un telecronista, per chiunque, ok, che uno tifoso presenta la partita più bella del così non esiste. Quindi complimenti a Siena, hanno fatto grande onore. Certo. Al basket italiano, credimi. 800-24-0024 per le vostre telefonate, messaggi 349-238-6666. Fabrizio, Siena che fu anche tua, sta crescendo in maniera... Sì, è stata mia, purtroppo non in un momento in cui c'era questa disponibilità, questa possibilità, il progetto stava cominciando, ecco. Io il mio primo anno non era neanche Monte dei Paschi, era sì. Ducato Gestioni, che era sicuramente un prodotto del gruppo, però solo dal mio secondo anno è cominciato a entrare il Monte dei Paschi a tutti gli effetti. Adesso è il proprietario della società, quindi sono cambiate le strategie e sono cambiati gli obiettivi, però è stato il primo passo. Arrivamo ai playoff, ci qualificammo per quella che fu la Super League, sì. Non so se vi ricordate, per un anno ci fu una scissione fra Eurolega e Super League, certo. E noi ci partecipammo e fu la prima grande esperienza in Europa di Siena, quindi l'inizio di questa che poi è diventata per merito degli altri un'epopea. Senti Fabrizio, Siena che sta crescendo molto velocemente, molto più velocemente di quanto mi aspettassi. La vittoria di Cantù non è una cosa banale, e poi è arrivata la prima grande vittoria stagionale con il Barcellona. Guarda, io penso onestamente che sia forse più importante la prima vittoria di che hai detto, quella di Cantù. Sì. È ovvio che Barcellona non è Cantù, è una squadra di ben altre spessore, e sono i campioni d'Europa in carica, però non è una squadra che in questo momento sta andando benissimo. Invece Cantù è un campo molto molto difficile, venivano da una bellissima vittoria, andare a vincere al Pianella onestamente molto molto difficile. Io credo che parte della grande partita fatta poi col Barcellona sia nata lì, perché sì. Quella vittoria dà sicuramente tanto morale, tanta convinzione per un gruppo come quello di Siena, che è in gran parte nuovo, perché quest'anno per la prima volta negli ultimi 5 anni, non dimentichiamoci, appunto, hanno cambiato giocatori chiave. Coach, ieri sera invece hai raccontato Milano, sembrava di vedere il gigante contro un bambino dal punto di vista fisico, ogni tiro sbagliato, ogni tiro che finiva sul ferro creava la psicosi del rimbalzo a Milano. Well, due o tre cose, innanzitutto Piero Bucchi ha avuto un paio di problemi. Ovviamente Melli, che ha grande potenziale, però al momento non è pronto per affrontare un Panathinaikos, ok? E poi doveva il problema di dover inserire Van den Spiegel. Due problemi per lui, perché non vuole perdere Melli, deve fare qualche minuto in campo e poi deve lanciare Van den Spiegel. Quindi contro Panathinaikos era stata una cosa problematica. Due, Panathinaikos ha avuto due canestre di grande fortuna, soprattutto quella di Diamantidis allo scadere dei 24 secondi, una volta letteralmente buttata la palla lì nel secondo quarto per dire almeno tocca il ferro, abbiamo la possibilità di rimbalzo. Ciuff, canestro da tre. Poi un arbitraggio, non voglio mai cercare per le squadre italiane la mentalità sugli arbitri, perché questa crea vittimismo e crea alibi, e io sono contrario a queste due cose, però io non voglio dire niente. Arbitraggi anche a Siena, Siena ha vinto, quindi mi spiego di Siena, arbitraggi deboli, arbitri non all'altezza di queste manifestazioni qui. Poi c'è Jungenbrand, che è un finlandese, cosa può sapere in Finlandia di una partita di questo livello qua? E io vedo Jungenbrand, allenato lui è sul primo anno, sì. Io allenato secondo anno a Bologna, parla 74-75, lui debuttante come arbitro, era un arbitro debole ai tempi e debole ancora oggi. Successo una cosa proprio davanti a lui a Siena, indecisione fra gli altri due, lui era lì, fischietto in bocca, non ha detto niente, non ha preso decisione. Quindi, e poi ieri sera a Milano due o tre cose, non due o tre, Bucchi ha preso un fallo tecnico, e questo mi dispiace, perché quando Bucchi prende un fallo tecnico la squadra dice ah, gli arbitri sono contro, però Bucchi doveva farlo, cioè perché li stavano letteralmente facendo secco, e quindi arbitraggi deboli. Però hai ragione tu, Panathinaikos un altro spessore, scendono in campo consapevole della possibilità di sbancare Milano, invece Milano non ha ancora acquisito questa sicurezza, nonostante la bella vittoria a Valencia. Sì, Milano sembra un po' il Milan, Fabrizio, più da Italia che da Europa. Beh, sai, Milano innanzitutto in Europa secondo me va valutata con il roster al completo, perché come ha detto il coach, Melli non è assolutamente pronto per questo livello di gioco. Quindi se si confronta con le squadre della sua fascia è un discorso, ma se si confronta con questi top team come può essere il Panathinaikos o come potrebbe essere Olympiacos che ha incontrato Roma, dal punto di vista fisico paghi sotto tutti i punti di vista. Quindi hanno bisogno di Petravicius al 110%, cosa che ancora non abbiamo visto da quando il ragazzo è a Milano, e di Pechorov c'è poco da fare, se no dai centimetri, chili in tutti i ruoli, ed è veramente una battaglia, certo, troppo in salita. In Europa, in Italia questa cosa si paga di meno, e si paga di meno perché comunque il livello fisico del nostro campionato, è vero che il campionato greco e il campionato spagnolo non è che offrono tutte le squadre di questo spessore, però quando tu vai in Eurolega e incontri quelle due, quelle tre, il Barcellona, il Real Madrid, l'Olympiacos, Panathinaikos, quello è il livello di gioco, e senza i lunghi Milano non può giocarci, c'è poco, certo, da fare. Ancora una domanda per il coach. Coach, che cos'è Ricky Rubio, che sembra sparito in questa stagione? L'hai visto l'altro giorno? Guarda, la mia teoria è questa qui. Questo ragazzo che è stato sfruttato sia dalla nazionale spagnola a tutti i livelli, juniores, cadetti, under 20, che ne succede, non ha avuto, secondo me, un periodo di tre giorni filati, non dico quattro, ma tre giorni di riposo in sei o sette anni, cioè, quindi gioca e secondo me il loro è stanco proprio fisicamente, psicologicamente. Lui avrebbe bisogno di due settimane al mare e due settimane in montagna per ossigenarsi. Anch'io, coach, ho bisogno di settimane al mare. Vengo anch'io, andiamo tutti con Rubio. Andiamo tutti con Rubio. Tu sei già troppo ossigenato, okay? Quindi, ma Rubio è, secondo me, è spremuto e ha bisogno di riposo e ricarica, e forse loro capiranno questo, però lui è solamente l'ombra del, certo, super giocatore che abbiamo visto, l'ombra, neanche. Grazie coach, ci sentiamo venerdì. Ciao ragazzi, ciao Fabrizio, amici, ciao. Ciao a tutti. Ci fermiamo un attimo per il traffico, 800 24 00 24 se volete parlare con Palla Spicchi, ma soprattutto con Fabrizio Frates. Traffico. Palla Spicchi. Ecco che torniamo, io e Fabrizio Frates stiamo preparando le valigie per andare al mare e poi in montagna con Ricky Rubio. Fabrizio, io ho una domanda per te. Poi te ne faccio anche una fila in uno contro uno divertente, io spero, anche per te. Intanto ho una domanda che arriva via SMS, che è questa di Omar. Visto che ormai il fatto è in prescrizione, coach Frates ci può dire cosa fu esattamente a causare il suo divorzio dalla Fortitudo? che mi ha mandato via, c'è poco da prescrivere. La squadra andava male, boh, neanche malissimo, ecco, andava sicuramente peggio in Eurolega che in campionato eravamo al 50%, e niente, quella fu il primo di una serie di provvedimenti che poi la società in una stagione veramente drammatica e tragica prese, cambiando. Dopo di me arrivò Ataman, dopo Ataman mandarono via anche lui, riuscirono a cambiare quattro allenatori nella stessa stagione, più giocatori, e io non so, penso che quell'anno lì, se vai a vedere le statistiche di quella stagione, ci saranno 25 giocatori sotto contratto, ecco, tanta è stata la rotazione di quelli che entravano, venivano, non si capiva più niente, e poi la stagione finì nel peggiore dei modi, insomma. E chi vuol capire capisca, anche Omar magari. Chi vuol capire capisca, anche tra gli ascoltatori, Jacopo da Vicenza: è vero, il Milan non ha mai vinto la Champions League, che paragone è? Ma insomma, quello che ho detto io è che in questa stagione mi pare che il Milan abbia più la pelle da campionato che non quella da Champions League, l'ha cambiata, magari anche inconsapevolmente. Lo stesso vale per l'Olimpia, che pure a livello europeo in anni ormai lontani qualcosina ha combinato, però sono squadre che mi sembrano più adatte per il fronte interno che per quello internazionale. Cioè, secondo me c'è una cosa da dire, che il campionato italiano è completamente diverso dal campionato che incontrano l'Olympiacos e il Panathinaikos, che fanno due partite in un anno di quelle vere, poi dopo vanno la domenica in trasferta, non so, a Marussi piuttosto che a Larissa, e non hanno neanche il problema di affrontare la partita. Il campionato italiano è tutta un'altra cosa, certo. Dopo aver incontrato il Panathinaikos in casa, vai, che so, a Teramo, che è l'ultima in classifica, che non ha ancora fatto una vittoria, e rischi bellamente di perdere, ecco, per cui... Quindi sei d'accordo con Pianigiani, che dice che il campionato italiano è più competitivo d'Europa? Secondo me sì, per come livello medio Simone ha ragione, perché il valore secondo me del campionato lo si tocca con mano quando si incontrano le squadre cosiddette di seconda, di terza fascia, ecco. È evidente che magari nel nostro campionato non esiste l'Olympiacos o non esiste il Barcellona, magari, che poi non è vero perché Siena è di quel livello lì, questo è sicuro, però ce n'è una, diciamo. In altri campionati magari ce n'è due, magari ce n'è tre, non so, in Spagna ce n'è tre, c'è il Calaboral, c'è il Real Madrid, c'è il Barcellona, sono tre squadre dello stesso livello, però se incontriamo la decima del nostro campionato, la decima del campionato spagnolo, i nostri sono nettamente meglio. Sì, tra l'altro Spagna curiosamente un po' in declino, almeno sul fronte dei club. Barcellona ha perso già due partite, però rimane la squadra probabilmente più forte che c'è in Europa. Il Real Madrid di Ettore Messina, che è andato a perdere anche ai confini dell'impero a Charleroi, è stato sconfitto anche Vittoria. È un momento di controtendenza quasi. Secondo me è un momento di difficoltà economica anche per loro. Sì. Non mi sembra che stiano facendo più gli stessi investimenti, e sicuramente Real Madrid, pur avendo una squadra bellissima, non ha fatto gli investimenti di un Panathinaikos o di un Olympiacos. Certo. Ecco, io non credo che ci siano giocatori sotto contratto con contratti tipo quello di Spanulis o tipo quello dei giocatori di Teodosic, cioè di Papaloukas. Certo. Ecco, io non credo che Real Madrid possa arrivare a quel livello di retribuzione e quindi a quel livello di giocatori. Ascoltatori, già tanti: Dionigi, provincia di Como; Giuseppe, sempre provincia di Como; Carlo, provincia di Milano. Dionigi, buongiorno. Sì, buongiorno ai radioascoltatori e un ciao Fabrizio. Ciao Dionigi. Ciao. Finalmente ti sei schierato col tuo nome vero. No, beh, è chiaro, la mia telefonata vuole essere una minima almeno provocazione, nel senso che Fabrizio non solo è un bravissimo tecnico, e devo dire che ho avuto la fortuna di lavorarci insieme, è un conoscitore proprio profondo di tutti i giocatori, io lo reputo una bibbia della pallacanestro, perché ha avuto anche lui dei maestri come Bruno Arrigoni, che lo nomino perché è veramente una biblioteca della pallacanestro. Quello che mi fa specie è che Fabrizio non ha squadra. Uno bravo come lui, preparato come lui, non ha squadra. Questo veramente mi sconvolge. Sì, soprattutto perché, anche perché reduce da una stagione, oltre tutto quello che lei ha detto, reduce da una stagione vincente, è uno dei tanti paradossi con cui ci confrontiamo. Dionigi, lo sai come la penso, insomma il nostro è un lavoro ciclico, ci sono momenti positivi, negativi, io non reputo questo un momento negativo onestamente, e sono successe delle cose quest'estate, c'erano delle opportunità, un po' per responsabilità mia, un po' per altre situazioni, non si sono verificate, però non è non la reputo assolutamente una bocciatura del mio lavoro, anzi l'anno scorso ho fatto una stagione straordinaria, a Montegranaro siamo arrivati sesti, meglio di così non ho assolutamente nulla da rimproverarmi. Sono tanti gli ascoltatori che vogliono conoscere qualcosa sul tuo destino, vedo gli sms, poi ne parliamo con calma. Va bene. Giuseppe. Ciao Dionigi. Pronto? Pronto Giuseppe, dica. Mi ha già bruciato un po' la domanda Dionigi, perché anch'io sono di Cantù, vecchio conoscitore. Ti vogliono vedere in panchina, basta stare a casa, sennò ti mandiamo davvero con Rubio. Beh, comunque volevo solo chiedere a questo punto un giudizio secondo l'indimenticato allenatore Frates qui a Cantù, della squadra nostra, secondo lui dove potrebbe arrivare quest'anno? Guarda, la squadra vostra è bellissima, sono andati contro tendenza quest'anno perché per la prima volta non hanno fatto un cambio radicale perché avevano fatto troppo bene per cambiare quella squadra e con la solita lungimiranza questa volta l'hanno tenuta per 8 decimi, hanno aggiunto giocatori importanti, chiave, migliorando le piccole cose che c'erano da migliorare, certo che poi c'è da migliorare un risultato come quello del 4º posto dell'anno scorso che è molto difficile onestamente, sì. Quindi si rischia di fare una stagione bellissima e magari arrivare quinti, arrivare sesti e quindi sulla carta fare peggio, perché arrivare prima della prima 4 vuol dire fare la finale, insomma vuol dire fare la finale scudetto, però io penso che una squadra più bella di così non potevano allestirla quest'anno, hanno fatto un bel sacrificio perché tutti i giocatori dovevano rinnovare contratti, quindi sicuramente hanno monetizzato la grande stagione passata, hanno fatto un grande sforzo, quindi dovete essere molto contenti. Carlo, provincia di Milano. Buongiorno. Volevo chiedere anch'io a un tecnico molto in gamba invece che cosa ne pensa di Varese quest'anno. Ciao Carlo, intanto guarda, c'era qui venerdì scorso il tuo amico Charlie Recalcati. Sì, io parlo spesso con Carlo, ci siamo visti anche settimana scorsa e i feedback che mi dava nel precampionato erano di grande preoccupazione, perché la squadra non sembrava tanto competitiva, c'erano difficoltà di infortuni, difficoltà, e poi come sempre succede alle squadre di Carlo invece è partito come un treno, ha fatto dei risultati importantissimi, ha già messo in cascina punti decisivi per fare una stagione molto positiva, per cui adesso c'è un bel clima, leggo i giornali, c'è una bella atmosfera serena, c'è grande entusiasmo, è una squadra molto esperta, è una squadra con giocatori di molto costanti di rendimento, quindi io penso che si toglieranno delle belle soddisfazioni. E già una se la sono tolta bella. Beh, grossa, sì, penso che si siano tolti una grandissima soddisfazione, battere Siena è veramente impresa da pochi. Con un americano come Ron Slay andresti d'accordo? Ma io l'ho avuto a casetta Ron onestamente un anno e ha fatto anche una buona stagione, è un ragazzo un po' particolare, però gli piace tanto giocare, uno che dà sempre il 110% per la squadra, anche dal punto di vista dello spettacolo, delle emotività, certo, che restituisce al pubblico è importante in una squadra, perché soprattutto nelle partite in casa lui sa accendere, sì, l'entusiasmo al gruppo. Io penso che Ron sia veramente un bel acquisto. Io pensavo l'avessero fatto anche prima, cioè proprio in sede di formazione della squadra, poi dopo c'è stato questo piccolo interregno precedente e poi sono andati a riprenderselo perché aveva fatto bene, perché era il giocatore giusto, anche perché tecnicamente con tipi di lunghi che ha Varese ci sta benissimo, perché è molto difficile marcare due lunghi interni ed esterni come sono, certo, Galanda e lui contemporaneamente. Uno che trasmette emotività al pubblico è anche uno che con il pubblico ha rapporti schietti, ricordiamo quel famoso episodio di Caserta con quando entrò in contatto, no? Lui per primo forse con quelli che vennero a protestare al palazzo. Ah beh sì, beh, Ron è un ragazzo genuino così com'è, quindi non nasconde mai le sue emozioni, quindi bisogna anche stare attenti qualche volta e girargli alla larga. ci fermiamo un attimo per sentire la borsa, poi naturalmente torniamo e giocheremo anche uno contro uno con Fabrizio Frate. 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Palla spicchi. Ecco che torniamo, sempre qui con me Fabrizio Frates. Beh, direi a questo punto, caro Fabrizio, questo non l'hai ancora fatto perché l'altra volta che sei venuto a trovarci non c'era questo gioco. Te lo spiego subito in questa sigla. Uno contro uno, qualche domandina per te. Vabbè. Sei pronto? Sì, sì. È vero che hai rifiutato la chiamata di Reggio Emilia per sostituire Cohen in attesa di uno squillo da Roma? No, guarda, questa anzi mi fa piacere che me lo chiedi, perché non è assolutamente vero, è una cosa che è uscita soprattutto sui giornali, sui media di Reggio Emilia, ma io non ho ricevuto nessuna chiamata da Reggio Emilia. Io a Reggio Emilia sono stato benissimo 3 anni e abbiamo fatto grandissimi risultati. Tutte le volte che succede qualcosa dicono che mi hanno chiamato, io non voglio tornare, invece non è vero, non mi hanno più chiamato e basta, le cose sono cambiate e hanno fatto un'altra scelta e quindi non ne abbiamo neanche parlato. Un vantaggio o uno svantaggio prendere una squadra in corsa? Ma guarda, io credo che sia sempre uno svantaggio comunque, perché a noi piace costruircela la squadra e lavorare l'estate, fare la preparazione e comunque tu quando prendi la squadra in corsa prendi la squadra in difficoltà, quindi non hai voglia di partire già col piede sbagliato, quindi è sicuramente uno svantaggio. È meglio partire dall'inizio dell'anno, fare le tue cose e magari sbagliare in proprio invece che dover aggiustare delle situazioni magari compromesse. Senti, pensi ancora o magari sogni ancora la finale di Coppa Italia contro la Benetton di Messina nel 2005? No, era un risultato talmente clamoroso quella partita lì, anche se poi quando l'abbiamo giocata abbiamo sognato comunque di vincerla per tutta la partita, ma sapevamo che insomma noi avevamo fatto fuori Roma e Milano nei quarti e nei semifinali, eravamo una neopromossa, quindi eravamo già andati oltre ogni più incredibile e ottimistica aspettativa. Hai dichiarato: non esiste un campionato per completare la formazione dei giocatori prima dell'ingresso nel mondo professionistico. È sulla stessa linea d'onda del calcio, dove la competitività del campionato primavera è pari a zero. Cosa faresti in merito? Ah, è un discorso lunghissimo, avremo bisogno di 4-5 ore, però confermo questa mia idea. C'è un momento fra la fine della vita nelle giovanili, chiamiamola, e il passaggio al professionismo di vuoto, in cui i ragazzi sono costretti a stare seduti sulle panchine perché non sono ancora pronti e nello stesso tempo magari sono troppo forti per giocare in altre realtà minori, ed è un momento di tempo assolutamente perduto. Sei milanese, hai allenato Siena come dicevamo prima, tra le due quest'anno chi vedi scudettata? Da milanese spero Milano, anche perché Siena ha talmente vinto tanto in questi ultimi anni, anche se per un anno vincesse Milano non sarebbe mica poi male, forse nell'interesse del movimento, però come ha giustamente detto Minucci, lui sa chi vincerà ma non lo dice, io lo dico onestamente, penso che poi alla fine sarà ancora più forte Siena. Sono d'accordo, per quel che può contare. Reggio Emilia, Caserta, Montegranaro. Dove torneresti in vacanza? Dove si mangia meglio? E dove i tifosi ti lasciavano fare la spesa in pace? Ma onestamente in vacanza non è che sono tre gran bei posti, ecco. Montegranaro diciamo che è quello che è vicino al mare e quindi magari per una vacanza, anche se poi tutto quello che c'è intorno a Caserta è meraviglioso, per cui se allarghiamo la vacanza, non so, la costiera amalfitana, torniamo a Caserta, sì. Ecco. Dove si mangia meglio? No, beh, questo è difficile da decidere, veramente difficile. Sono tre cucine completamente differenti. Si mangia benissimo dappertutto, come in Italia penso sia regola. Dove mi facevano fare la spesa in pace? A Montegranaro di sicuro. Montegranaro di sicuro, sì. Mentre Reggio Emilia e Caserta un po' più di pressione. Un po' meno. Diciamo che a Caserta la squadra è vissuta in un modo talmente viscerale che sempre in maniera molto simpatica, però ti sono sempre molto vicini anche durante la giornata nelle cose quotidiane. Fabrizio, chi strozzeresti più volentieri? Tra un tuo giocatore che sbaglia sotto mano della vittoria o un arbitro che fischia un fallo in attacco inesistente sull'ultimo tiro? Ma direi l'arbitro. Direi l'arbitro perché è il mio giocatore. Intanto devo allenare anche il giorno dopo. E poi perché io considero sempre che l'errore tecnico del giocatore fa parte del gioco. Ecco. Un'interpretazione sbagliata dell'arbitro ti fa veramente andare fuori di testa. Diciamo che non strozzo nessuno dei due, però... Sempre sui giocatori, Mourinho ha detto, pare abbia detto, insomma, se dovesse andare in guerra il primo che mi porto è Lucio, dei giocatori, dei miei giocatori. Tu, tra quelli che hai allenato, chi ti porteresti? Cantarello, questa non me l'aspettavo. Da architetto è più difficile mettere in piedi una squadra o le fondamenta di un palazzo? Forse mettere in piedi la squadra. Sì, eh? Sì. Forse sì. Bene, Fabrizio, promosso a pieni voti. Aspettiamo il responso degli ascoltatori e torno a domande più tecniche. 800240024 è il numero verde. Resto su due tue ex squadre che stanno navigando a fari spenti e sono appunto Treviso e Caserta, di cui abbiamo parlato. Caserta ancora al palo con mille problemi e mille difficoltà. Treviso che non riesce a trovare la faccia vera di questa squadra, che sulla carta è molto interessante, molto giovane, molto talentuosa, ma di fatto è anche molto deludente in questo via di stagione. Ma sinceramente secondo me sono due situazioni differenti. Ecco, premetto che non è che ho visto tutte le partite di tutte e due le squadre, però la sensazione che ho avuto, per esempio, ho visto Caserta giocare a Siena e perdere nel finale una partita ottima, quindi sicuramente non di una squadra in difficoltà ma di una squadra in salute. Poi fa passare da 0 vittorie e 5 sconfitte e 2 vittorie e 5 sconfitte, ci sono due partite magari perse di un punto. Io penso che il vero peccato originale sia quella sconfitta con Biella nella prima giornata in casa, quando Biella fece il 70% da tre punti, e quella è stata la vera sorpresa. Per il resto penso che a Caserta sia solo questione di pazienza, la squadra c'è, i giocatori ci sono, c'è il pubblico, c'è l'allenatore, sì. Quindi io credo che ne verranno fuori in tempi abbastanza brevi se stanno tranquilli. Infatti, cosa paradossalmente che a Caserta non è tanto facile. Ecco, però paradossalmente non sembra una squadra in crisi, no, anche come linguaggio del corpo. Sono d'accordo. Però la pazienza è merce difficile quando sei a zero punti a novembre. Sì, lo so, però insomma, anche perché è una squadra che viene, non dimentichiamoci, è andata a una vittoria da un finale scudetto, ecco. Ed è praticamente la stessa squadra con Williams al posto di Kavaliauskas e Gary al posto di Michelori, quindi non è che è cambiata tantissimo. Sì. Per quanto riguarda Treviso invece mi sembra una squadra in questo momento ancora alla ricerca della sua identità tecnica. Proprio li ho visti qua a Milano, li ho visti veramente una partita molto difficile, sempre in salita, si vede che ancora proprio non hanno trovato gli equilibri, non ci sono dei ruoli ancora ben definiti, e onestamente fra le due questi sono quelli che vedo più in difficoltà. E c'è qualche similitudine tra Treviso e Roma? Roma è una squadra che si attorciglia nella sua crisi, l'abbiamo visto anche con l'Olympiacos, e come tutte le squadre in crisi basta una spallata, cade per terra e non si rialza più. La similitudine effettivamente sembrano due gruppi che non hanno ancora trovato un'identità precisa tecnica e un patto fra i giocatori, un'alleanza tecnica per come giocare, come affrontare le partite, come affrontare i momenti decisivi delle partite. In questo sì, però l'idea che c'è dietro le due squadre è un po' diversa. Ecco, mi sembra che Treviso ha puntato di più su una squadra futuribile, Roma ha puntato su un nucleo forte di giocatori italiani, hanno fatto scelte un po' differenti. Torno agli ascoltatori, guarda un po' Francesco da Caserta e poi Antonio da Brindisi. Francesco, buongiorno. Buongiorno, complimenti innanzitutto la trasmissione. Niente, volevo dire un paio di cose. Sì. Una riguarda diciamo la situazione delle grandi, delle big del campionato. Siena quest'anno ha quasi concesso la possibilità ad altre squadre di ridurre un attimino il gap, cambiando tantissimo del suo gruppo. Io credo che questa prima fase di stagione, più che i risultati, sia per la Coppa e il campionato, sia anche da valutare dal punto di vista motivazionale ed emotivo. Cioè, se però Milano e Roma e poi appresso diciamo, le altre squadre del campionato consentiranno a Siena ancora una volta di mostrarsi più viva, più forte, più organizzata, più tutto, io penso che andremo incontro a un altro campionato con una vincitrice già decisa a Natale, penso, perché quello che si vede in Coppa ed anche in partite campionate, Siena è una squadra che sa sempre quello che deve fare in campo, anche con giocatori appena arrivati, sì, a differenza delle altre. mia cosa, niente, essendo di Caserta, seguo l'epicentro da vicino della Juve Caserta, ho sentito la disamina di coach Frates sulla squadra. Io credo comunque ci sia anche qualcosina dal punto di vista tecnico, un po' che non sia stato valutato fino in fondo per quanto riguarda il gioco di quest'anno, con tante squadre hanno ridotto di tantissimo il tiro da tre punti, invece credo che Caserta abbia continuato a puntare molto su un gioco perimetrale. È vero che adesso è stato inserito Williams, però magari poteva essere rivista qualcosina nel parco giocatori che è stato confermato. Mi riferisco magari anche agli americani stessi. L'aver confermato giocatori, secondo me, per Caserta come per Cantù è sempre un punto di forza. È chiaro che Williams è un giocatore condizionante. Sull'uso diverso del tiro da tre punti mi sembra che sia uguale all'anno scorso, più o meno. O no, Fabrizio? Sai, intanto fai fatica a non confermare una squadra che è andata un passo da una finale scudetto. Insomma, onestamente vorrei vedere chi non avrebbe confermato quest'estate Bowers o Ibier. Insomma, sono giocatori che hanno fatto una stagione straordinaria. Per cui prima di privartene e di prendere qualcun altro ci pensi su cinque volte. Certo. Ibier sta viaggiando delle percentuali che non sono le sue da tre punti, e soprattutto Jumaine Jones non sta tirando da tre punti come faceva prima. Però non sono così convinto che sia stato il cambio della regola e l'aumentare di 50 centimetri la distanza. Se ci sono delle cose tecniche, io quello che posso dire da fuori, quindi competenza zero, conoscenza dei problemi veri zero, perché quelli li conosce solo Sacripanti, vederli da fuori sicuramente Michelori dava una mobilità completamente diversa e un'aggressività completamente diversa di quella che può dare Williams, che è un giocatore infinitamente più forte, senza ombra di dubbio, ma molto differente come caratteristiche, e quindi avranno bisogno anche di inglobarlo nel loro sistema. Traffico, poi Antonio da Brindisi. Palla spicchi. Dunque Antonio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, senta, io telefono da Brindisi, tifoso dell'Enel Basket Brindisi, e a proposito di una squadra vissuta con troppo affetto forse da noi brindisini, cioè noi andiamo in giro, siamo ormai diventati famosi perché dove gioca la nostra squadra in trasferta ci sono le migrazioni. Almeno 1000, esatto. Sì. E anche a proposito di neopromossa, l'Enel, e volevo appunto chiedere cosa ne pensa il coach, l'Enel sta segnando il passo, non tanto forse per le sconfitte, perché bene o male ha affrontato Roma, Milano e Varese in trasferta, ha vinto in casa col Bologna, ma forse per come sta giocando e per i tanti cambi che sono stati fatti da quest'estate, cioè da quando è stato allestita la squadra, il roster, ad oggi, a distanza di un mese all'inizio del campionato. Williams, che adesso sta a Caserta, è stato tagliato dopo poco tempo, e al suo posto Leng, Monroe che è infortunato, c'è Robertson, poi è stato tolto Radulovic, che era uno dei confronti l'anno scorso, ed è arrivato Touré. Insomma, ci sono stati una serie di cambi, eppure il nostro amato comunque allenatore aveva avuto carta bianca dalla società, aveva avuto un budget molto più alto rispetto allo scorso anno. Sì. A questo punto ci chiediamo, allora ha sbagliato formazione? Cosa pensa? Ma adesso sentiamo Fabrizio Frates. A me sembra che stia pagando anche dal punto di vista societario l'Enel, lo scotto, il noviziato. Mi sembra una squadra molto intrigante dal punto di vista dei nomi, ma magari non costruita benissimo. Fabrizio. Intanto l'affetto non è mai abbastanza, quindi avere 1000 spettatori che vanno in trasferta è una cosa meravigliosa. Io l'ho avuto per la pallacanestro, banalmente per la pallacanestro italiana. Per la pallacanestro italiana, quindi continuate così, anche se la squadra, è logico, voi venite da una stagione meravigliosa e piena di vittorie, ma il salto dalla 2 alla 1 è un salto molto importante. Quindi la prima cosa psicologicamente è proprio da affrontare una stagione dove su 5 partite ne vinci 4 e una stagione subito dopo che su 5 partite ne perdi 4, e questo ci sta nella logica delle cose, è sicuramente più difficile. Poi bisogna analizzarli questi cambi, perché bisogna dire che Williams io non lo considero neanche mai stato un giocatore dell'Enel in pratica. È vero, hanno perso del tempo a trovare il suo sostituto perché ci credevano, però di fatto lui quella casacca non l'ha mai neanche emessa. E poi Monroe, io penso che è un giocatore che non avrebbero cambiato mai se non si fosse fatto male. Quindi queste sono state queste due situazioni contingenti. Radulovic è un giocatore che più di ogni altro, per l'età e per il tipo di gioco, ha pagato il salto di categoria, per cui è un giocatore che in A2 ancora può fare tanta differenza, in A1 può fare tanta fatica, e quindi l'arrivo di Touré è abbastanza comprensibile, anche perché Touré era un giocatore di quel ruolo disponibile in questo momento sul mercato. Quindi queste valutazioni bisogna farle. Sicuramente è una squadra con dei nomi importanti e con dei giocatori di talento, che però non è facile mettere insieme. Su questo non sono d'accordo con te, perché sono tutti grandi giocatori individualisti. Ecco, io ho visto la partita con Varese, veramente si vede che c'è bisogno di trovare un equilibrio lì, perché tutti hanno la palla nelle mani e tutti hanno, legittimamente o meno, l'ambizione di essere i finalizzatori della squadra. Buongiorno Flavio Tranquillo. Buongiorno a voi. Come stai? Bene, grazie, a voi? Non male, non male. Ciao Flavio. Settimana interessante, Flavio, dal punto di vista dell'Eurolega. Molto interessante, direi che intanto a Milano abbiamo visto giocare una favorita per la vittoria finale, a Roma l'altra, quindi è sempre un piacere. Poi le squadre italiane hanno perso, però abbiamo visto giocare un'ottima pallacanestro. I campioni invece hanno perso in Italia, quindi facciamo pari e patta. Abbiamo visto tre grandi squadre, 1-2 non è un brutto bilancio per niente. Sì, prima parlavamo con Coach Peterson di Ricky Rubio. Coach vorrebbe mandarlo 4 settimane in vacanza, 2 al mare e 2 in montagna. Certo, andiamo anche io e Fabrizio Frates naturalmente, certo è un altro giocatore, Rubio. Beh, di sicuro tra quello che è stato a Siena per fare una fotografia lo scorso anno in stagione regolare, e ha letteralmente dominato la partita, in certi momenti ridendo la partita, e quello che si è fatto irridere dalla partita mercoledì scorso, certo che c'è molta distanza, però sono due fotografie, bisogna fare il film è quello di un ragazzo che non ha 35 anni, neanche 30, neanche 25, e se non avesse un minimo di rimbalzo nel rendimento, con tutte le pressioni a cui è soggetto, sarebbe un robot. Flavio, facciamo un salto nell'NBA, perché oggi le pagine dei giornali sono per i nostri tre ragazzi, partiti non benissimo in questo avvio di stagione. L'altra sera hanno vissuto una notte di magia con tanti punti e soprattutto 3 vittorie. Il migliore più costante in questo avvio di stagione è Belinelli, gli altri due hanno, mi sembra che abbiano una montagna di pressione addosso. Ma guarda, intanto al momento la differenza è che Belinelli gioca in una squadra vincente e felice, sì. E altri due giocano in squadre perdenti e infelici, quindi già questa è una differenza. Poi Belinelli naturalmente aveva un margine di crescita davanti enorme, perché per vari motivi a Golden State e Toronto non ha avuto alcun tipo di spazio, adesso ha dello spazio. Gli altri due hanno tutto lo spazio del mondo, possono fare molti tiri, molti punti, a volte molti tiri e molti punti. Poi bisogna vedere i risultati e soprattutto poi bisogna vivere l'atmosfera di squadra NBA come i Knicks e i Raptors di questo momento, che sono due squadre che ho definito infelici, ma bisogna avere più tempo per definirle bene. Sei d'accordo, Fabrizio? Sì, sicuramente sono d'accordo. Il contesto condiziona, il contesto tecnico e anche il contesto emotivo, ambientale, è molto importante. Il quadro generale va sempre, un giocatore va sempre inserito, se no non ci si spiega perché in una situazione rende e in un'altra non rende. Ecco, Belinelli ha trovato secondo me la situazione ideale, la situazione tecnica ideale forse ce l'hanno anche gli altri due, soprattutto Bargnani, però il contesto da squadra è molto molto difficile, e soprattutto da Danilo, penso che a New York stia vivendo delle pressioni molto molto pesanti, perché insomma la squadra a New York, sappiamo, pur non essendo di lì, ce lo racconta sempre Flavio, sappiamo che è vissuta in maniera molto particolare. Io, tra le tante domande che ci arrivano attraverso Facebook degli ascoltatori, per ragioni di tempo ne scelgo una, che è questa di Luca, visto che abbiamo Flavio Tranquillo e abbiamo un signor allenatore come Fabrizio Frates e un paio di minuti a disposizione. Qual è il segreto dell'esecuzione offensiva degli schemi, perfetta e velocissima, di squadre come Pana, Efes e Barcellona? Domanda Luca. Flavio. Beh, la risposta più tecnica la deve dare Fabrizio. Io direi che la prima cosa da capire è che ci vogliono giocatori ovviamente bravi e per bravi intendiamo non limitati con i fondamentali, quindi giocatori che non possano andare solo a destra ma non a sinistra, solo a sinistra ma non a destra, possono solo tirare da fuori ma non da sotto o viceversa, possono solo attaccare e non difendere. Questa è la primissima cosa. La seconda, giocatori di questo tipo adatti al sistema che mette in piedi quell'allenatore. E la terza, senza la quale non bastano neanche la prima e la seconda, che già sono molto difficili, molto tempo lavorando, capendo dove si sbaglia, smussando gli angoli, prima quelli retti, poi quelli un po' più acuti, eccetera, eccetera. Per quel poco che capisco io, poi nello specifico ve lo dovrà vedere Fabrizio. Fabrizio ce lo racconta la prossima volta perché il tempo è scaduto. Grazie Flavio, ci sentiamo domenica. Un abbraccio. Ciao. Grazie. Flavio. Fabrizio, io spero potrei tornare a stretto giro di posta, però non so. Vediamo. Vediamo. Magari venerdì sono qua. Ma non so, magari no. Quando volete. Magari anche no. Grazie comunque. Grazie a te, grazie a voi. Grazie anche a Franco Piantanida per il lavoro in redazione, Filippo Aureggio in regia con lo sport. Ci sentiamo dunque domani dalle 17 alle 18 come sempre, come ogni sabato. E poi domenica, anticipiamo mezz'ora prima, da questa domenica e da qui in avanti, dalle 16.30 alle 19, tanto per cominciare, poi dalle 20.30 alle 21 c'è il basket. Vi aspetto.